Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Va ora in onda RR 1849, Il sangue migliore, la Repubblica Romana del 1849, liberamente ispirato alle cronache di Roma di Nicola Roncalli, di e con Emanuele Cecconi. È il 15 novembre 1848. Lo Stato Pontificio è in crisi, a Roma soprattutto. Il rapporto tra Papa Pio IX e il popolo romano è logoro. Le speranze di riconciliazione sono tutte riposte nell'azione politica di un uomo, il conte Pellegrino Rossi, primo ministro dello Stato Pontificio, che sta tentando di attuare per il Papa un ambizioso progetto di una confederazione di stati italiani. Il 15 novembre è mattina. A Roma, nei pressi di Campo dei Fiori, in piazza della Cancelleria, nel palazzo della Cancelleria, si sta per riunire il Consiglio dei Deputati, in seduta pubblica, aperta al popolo. Il cortile e la piazza sono pieni di popolo accorso per raggiungere il ministro Rossi. Il portico poi del palazzo e le scale sono così ingombri di spettatori che riesce difficile anche ad una persona di passare. E a garantire l'ordine pubblico c'è solo la Guardia Civica. All'interno del palazzo i deputati hanno occupato i loro posti e il numeroso popolo le tribune, tutti in attesa del primo ministro. Eccolo. Sì, si sentono dei fischi, degli schiamazzi, delle urla. È lui senz'altro. Invece no. Invece in aula entra Montanari. Sì, Montanari, il ministro del commercio. Deputati! Deputati, è finita! È l'anarchia! Stavo per entrare nell'atrio. Ero sui gradini quando è arrivata la carrozza di Pellegrino Rossi. Ne è sceso Rossi e... Il sostituto delle finanze, il cavalier Righetti. Il popolo, vedendo il primo ministro, gli ha fatto ala per farlo passare. Poi hanno cominciato a fischiarlo, a schernirlo. Rossi non ha reagito, ha fatto pochi passi. Ma prima che arrivasse alle scale, dove ero io, si è girato verso la moltitudine in segno di sfida, agitando i guanti che aveva in mano. E allora il popolo improvvisamente lo ha stretto e tra le urla e un movimento disordinato di braccia ho visto che qualcuno lo ha strattonato di lato perché girandosi lasciasse scoperta la carotide. Sembrava affogare nel proprio sangue. Pellegrino Rossi venne trasportato subito nelle camere del cardinale Gazzoli. Ma non c'è niente da fare, il primo ministro muore. È 1:45 del pomeriggio. Il cardinale Gazzoli scappa dai propri appartamenti gridando: «Sono liberale! Sono amico del popolo! Non mi ammazzate!» E scompare. Il Papa, conosciuto l'accaduto, scoppia in un pianto di dolore, esprimendosi per sfogo che il primo ministro era stato una vittima fatta da lui stesso, poiché egli lo aveva obbligato ad accettare un incarico che Rossi ostinatamente rifiutava. «Benedetta quella mano che Rossi pugnalò! Il traditore è morto! Abbasso tutti i preti!» grida il popolo per le strade, il popolo di Roma in via del Corso, il popolo che intanto da solo ha formato un nuovo ministero. Mamiani estero, Sterpini interno, Campello armi, Salicetti commercio e lavori pubblici, Fusconi finanze, Serenio Sturbinetti grazia e giustizia. Il popolo pretende che venga riconosciuta la nazionalità italiana, che venga convocata un'assemblea costituente e che si dichiari una guerra di indipendenza contro l'austriaco invasore. Forza! Forza! Tutta la Minerva! Tutta la locanda della Minerva! Andiamo! Dove da pochi istanti è arrivato l'avvocato Galletti, uno dei deputati. All'avvocato Giuseppe Galletti viene dato il compito di andare dal Papa a parlare con lui per fargli conoscere il nuovo ministero nato dalla volontà popolare. E Galletti allora va al Quirinale dal Papa. E il popolo tutto dietro a Galletti. Forza! Andiamo al Quirinale! Forza! Tutti al Quirinale! Fuori dal palazzo si urla, si grida, si chiama il Papa ad affacciarsi alla loggia. Santità! Santità! Ma niente, il Papa non esce. Riesce invece Galletti, che se ne va al quartiere civico. E il popolo? Dietro a Galletti. Andiamo a sentire cosa ha da dire, forza! Tutti al quartiere civico! E Galletti allora arriva al palazzo, si arrampica sulla loggia e da lì fa: concittadini, non ho potuto consegnare il vostro indirizzo al pontefice perché mi si è detto essere indisposto. Questo è stato consegnato nelle mani dell'eminentissimo Monsignor Soglia, il segretario di Stato. Lui lo consegnerà al Papa. Vedrete che domani conosceremo il pensiero del pontefice. Ora, brava gente, tornate nelle vostre case, vi prego. Il Santo Padre è realmente oppresso dall'avvenimento. Non può di certo gradire questa dimostrazione, né tantomeno accettarla con il cadavere ancora caldo di un ministro caro al suo cuore. No, no, concittadini! Per il momento il Santo Padre è fermo nel dire che non può mostrarsi al popolo e che nulla farà con la violenza! No, non va bene. Non va bene, troppa moderazione nelle parole di Galletti. È il popolo che è indisposto ormai e si spinge fino alle porte del Quirinale tentando di occuparlo. Gli svizzeri resistono e allora comincia la rivolta. Svizzeri, popolo e guardia civica si sparano e si fronteggiano per le strade. Il moto d'ordine in sostanza è di prendere le armi per abbattere le porte del Quirinale, passare a fil di spada gli svizzeri e trucidare il cardinale Soglia, il segretario di Stato. Intanto fuori al Quirinale si dirigono le barricate con carri, carrette, barrozze, ciarpame. Altro popolo armato butta giù le porte di un magazzino alla Pilotta, dove è custodito il cannone che il principe Torlonia ha donato alla guardia civica. Preso, caricato e trasportato sulla piazza del Quirinale e piantata la bocca contro il portone grande del Palazzo Pontificio. Ore 7:15 di sera. Viva la Repubblica! Viva la Costituente italiana! Fuoco! Un vivo fuoco di moschetteria si dirige verso il palazzo dove trovasi il Papa sovrano. Fuoco! Ad ogni istante sembra di sentire il rombo del cannone. Fuoco! Alcune palle cadono nelle camere prossime a quelle del Papa. Fuoco! Un legionario sul campanile di San Carlino vede un signor Palma, il segretario delle lettere latine, affacciato ad una finestra. Il legionario imbraccia il moschetto, prende bene la mira e un colpo al cervello. Addio, Monsignor Palma. Dopo due giorni di guerriglia finisce l'assedio. Si smontano le barricate e si fa la conta. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 morti e diversi feriti. Il cardinal vicario Duca Massimo, l'eminentissimo Bernetti, gli eminentissimi Mattei e Ugolini, l'eminentissimo cardinal Lambruschini sono tutti scappati da Roma. Ec metos inducas in tentazione, sed libera nos a mano. Amen. Forse l'uomo implora perdono, forse chiede consiglio, si alza, si segna, si inchina e se ne va. Ritorna nella sua stanza, arriva alla scrivania, esamina delle carte, prende in fretta dei documenti. Da un cassetto ancora aperto della scrivania tira fuori qualcosa, un rosario, lo bacia, lo infila in tasca, va via. No, un momento, torna indietro, non ha ancora finito. Roma, 24 novembre 1848, al Marchese Sacchetti, maestro di casa di Sacri Palazzi Apostolici. Affidiamo alla sua nota prudenza ed onestà di prevenire della nostra partenza il ministro Galletti, impegnandolo con tutti gli altri ministri, non tanto per premunire i palazzi ma molto più le persone addette a lei stessa, che ignoravano totalmente la nostra risoluzione. Che se tanto ci ha a cuore, e lei e i familiari, perché, ripetiamo, ignari tutti del nostro pensiero, molto più ci ha a cuore di raccomandare a detti signori la quiete e l'ordine della intera città. Pius, Papa, no. Sono le 8 di mattina del 25 novembre 1848. Si comincia a vociferare nella città, nelle osterie, nelle botteghe, che il Papa nella notte si è scappato da Roma. No, non è possibile. Ma ti pare che adesso il Papa scappa? No, non ci credo, non è vero. A mezzogiorno in punto, comunicato del Ministero. Il pontefice è partito questa notte da Roma, trascinato da funesti consigli. In questi momenti solenni il Ministero non mancherà a quei doveri che a lui impongono la salute della patria e la fiducia che gli accordò il popolo. Romani, fidate in noi. Mantenetevi degni del nome che portate e rispondete con la grandezza dell'animo alle calunnie dei vostri nemici. Ma allora è vero. E mo succede un 48. I moti del 48. La primavera dei popoli. Così l'hanno chiamata. Le parole sono importanti. Sì, perché alle volte hanno il potere di far vibrare l'animo di chi le ascolta e anche quello di chi le pronuncia. Certo, parole meravigliose come queste, primavera dei popoli. Primavera, dal latino primo, inizio, e ver, da una radice sanscrita col senso di ardente, splendente. E popolo, anche questa radice indoeuropea che esprime il concetto di riunire e mettere insieme. Ecco, vedete come l'etimo ci rivela una considerazione solenne. La primavera è inizio di splendore per tutto, per tutti. Nuova energia di nascita e creazione fluisce tutto intorno e anche dentro di noi, ed è un bene non lasciarsela scappare, perché poi ci metterà un anno a tornare. E forse è il momento più sacro e tenero dell'immortale ciclo delle stagioni, il momento del riscatto, del rinnovamento. Ecco, chi coglie questo rinnovamento sono proprio quelle persone, uomini, donne, che confidando in se stessi, nei loro ideali di libertà e di democrazia, hanno trovato dentro di sé il terreno dove far germogliare il seme del risorgimento. Il risorgimento che è considerato la primavera del nostro popolo, che usciva da un inverno freddo, freddissimo, un inverno triste, un inverno lungo 30 anni, cominciato il primo novembre 1814. C'era stata una conferenza nei pressi di Vienna, nel castello di Schönbrunn, allora capitale dell'impero asburgico. Praticamente, dopo gli sconvolgimenti portati dalla rivoluzione francese, dopo l'epopea delle guerre napoleoniche, sconfitto finalmente Napoleone, le potenze che risultarono vincitrici si riunirono. Ecco qua. E decisero che il modo giusto per mettere fine ad una guerra, ad una disputa, sarebbe stato quello di riunirsi per discutere e trovare una soluzione diplomatica che fosse stata vantaggiosa per tutti. Meraviglioso. Era un concetto avveniristico per l'epoca che servivano a cannonare per qualsiasi cosa. Un'idea che avrebbe dato vita alla Società delle Nazioni. Però, il primo novembre 1814, nel congresso di Vienna, si affermò questa cosa. La storia non è guidata dagli uomini, è Dio che agisce nella storia. Napoleone con le sue continue guerre è stato un anticristo. Dio segnerà la fine della storia malvagia e falsamente progressista della dottrina illuminista. Si riequilibrino le forze militari, si riassegnino i troni a tutti i sovrani deposti da Napoleone, ritenuti legittimi. Si instaurino monarchie assolute, no, senza parlamenti, no, senza rappresentanze elettive. Insomma, che venga ripristinato l'ancien regime. Ecco qua. E così le grandi potenze dell'epoca si spartiscono l'Europa e si apre l'età della restaurazione. Ecco invece loro, la loro idea di rinnovamento. Ma e l'Italia? L'Italia non esiste. Aspettate, com'è che ha detto quello? Sì. L'Italia è una deformazione geografica. L'ha detto quel gruppo di Metternich. E suona proprio male. Praticamente, dal congresso di Vienna del 1814, 30 anni fa, a oggi, 25 novembre 1848, la penisola italiana è divisa in 7 stati. Tutti sotto il controllo quasi totale dell'impero asburgico. È così per il regno lombardo-veneto, i granducati di Modena e Parma, il granducato di Toscana, tutti stati controllati direttamente o indirettamente da Vienna. Ma è così anche per lo Stato Pontificio e il regno delle due Sicilie? No, un solo regno, quello sabaudo di Piemonte e Sardegna, rientra invece nell'orbita francese e funziona come una sorta di stato cuscinetto fra Francia e Austria. Suona male, suona proprio male. Come? Dice, Asormè, ma voi come sapete tutte queste cose che siete ignoranti, non avete studiato, non sapete né leggere né scrivere? Dico, è per questo che mi chiamate sormaestro, perché so tutto senza sapere niente. Dico, ma che c'è bisogno di sapere leggere e scrivere per sapere queste cose? Basta appizzare le orecchie e guardare la vita di tutti i giorni, no? Pensate? Pensate che se la passiamo male? Dice signorante, e grazie, non c'è la libertà di istruzione. Noi c'avevamo la censura, sa? Non c'è manco la libertà di stampa. Quella di religione, poi. Se non sei cattolico, non sei cittadino. Roma? Roma è una città disastrata, piena di buche, di monnezza, dei palazzi che cascano a pezzi, e il Tevere ogni tanto straripa e ci annaffia tutti quanti. Vivevo sostanzialmente di elemosina che ci fanno le grandi casate nobiliari, e potevo finire in galera per una fregnaccia, per capriccio dei impotenti, e i potenti, quelli, sta sicuro, non pagano mai. I nostri giovani, anche quelli più gagliardi, a loro gli è negata perfino l'idea del futuro, perché non c'è lavoro. E così uno per star meglio ad emigrare in Francia, in Inghilterra, dove pare che le cose valgono un po' meglio, capito? Oddio. Ma che pure voi state messi così? Andiamo bene, ma allora non è cambiato niente, allora. No, un momento, scusa, aspettate. Noi nell'848 ci avevamo ancora la pena di morte. Se no era proprio tutto uguale, mi stava preoccupando. No, meno male. Noi nell'848 ci avevamo Titta. Titta sarebbe il diminutivo di Giovanni Battista Bugatti, detto... Ma bravi. È un boia vero e proprio, Bravo! Ti fa letteralmente a pezzi con una mano da cerusico. Pensate che la prima esecuzione che fece come boia del Papa c'aveva soltanto 17 anni. A Foligno, sempre nello Stato Pontificio. Impiccò un certo, come si chiamava? Nicola Gentilucci, sì. Perché questo aveva ammazzato un prete, capito? In realtà ammazzò pure il cocchiere della carrozza del prete. E in effetti ammazzò pure due frati che passavano. E così Mastro Titta lo impiccò. Però poi, dopo morto, con l'accetta gli tagliò la capoccia e la capoccia la mise sopra un palo. E poi, sempre con l'accetta, prese il corpo e lo tagliò un quarto, così lo squartò. E i pezzi li mise ai quattro angoli del patibolo a 17 anni, con la capoccia al centro, così, la natura morta. Vabbè, insomma, poi si imparò la ghigliottina. Beh, vuoi mettere un po' di progresso pure a noi, che diamine? Non c'è paragone. Il condannato sta più comodo, sta sdraiato, basta una botta, è fatta. E poi viene fuori un lavoro col pulito, no? Pensate che quando non fa boia, fa lo stesso mestiere mio. Arrivare e vendere ombrelli. A bottega sua sta a due del vicolo del campanile, a Borgo Pio, sotto al Papa. Boia non passa ponte. Oh, a proposito, ma noi sono 2 anni che c'hai sto Papa, Pio IX. E che poi devo dire? A noi ci sembrava un Papa liberale, un Papa democratico. Qualcosa ha pure fatto, non voglio dire no, ma siete che non è abbastato. Che tempi, non ci si capisce niente. Ogni tanto esce fuori qualcuno che può fare la rivoluzione e può cambiare le cose. E infatti c'è sta un genovese che ci sta a provare pure lui. È genovese, questo fa politica, però non urla, la fa di nascosto, perché è ricercato dalle polizie di mezza Europa. Si capisce bene se è in carbonara, un giacobino. Qualcuno dice che è un criminale, che manda a morire i giovani mentre lui se ne sta nascosto in qualche pizzo. Altri invece dicono, no, guarda che è un profeta, che indica la via verso la libertà. E io adesso non so che tipo sia. Quello che so è che ha fondato un partito clandestino, la Giovine Italia, e che si veste sempre di nero, tutto di nero, fazzoletto da collo nero, giletto nero, giacca nera, pantaloni neri, stivali neri. Dice che ha giurato di vestirsi sempre di nero finché l'Italia non fosse stata tutta quanta liberata e unificata. Io sta a lutto. Vabbè, questo si chiama Giuseppe Mazzini. Però dice che in italiano sto nome si pronuncia Mazzini. Però a me mi suona male, Mazzini. A Napoli siete la piazza Mazzini! E beh, come mette, suona meglio. Se mai gli dedicassero una piazza. Ma comunque io mica mi impiccio di politica, Io sono ignorante, non so niente, parlo così per dire, Mica che uno... Io non so niente, faccio l'ombrellaro. Però... quello italiano è un problema di nazionalità, un problema di indipendenza, di unità, di libertà, il problema di un vincolo comune, di una bandiera comune, di una vita e di una legge comuni per 25 milioni di persone appartenenti tra le Alpi e il mare alla medesima stirpe e uniti da tradizioni e ispirazioni comuni. Questo lo insegna Giuseppe Mazzini. E a me mi suona bene. Mi smuove una cosa dentro, anche se in effetti non so che ci avevano un altro animale in comune con piemontese, in toscano, un napoletano. E poi 25 milioni di persone. Io non riesco manco a immaginarmene. Figuriamoci la leggere tutti come fratelli, Come dice il canto degli italiani. Fratelli d'Italia. Comunque io non lo so, io non mi appiccio, io sono ignorante, è risaputo. Riparo l'ombrelli. E poi oggi è il 25 novembre 1848 e la notizia, dopo le schioppettate del Quirinale, è che il Papa è scappato da Roma. Un cataclisma, una sciagura, un castigo di Dio, un apocalisse! Ferma da lui. A noi altri romani la partenza del Papa non ci ha fregato un prospero. La città ha funzionato come sempre. Lì teatri pieni, meno male. Di caffè frequentati, le botteghe aperte, anzi, il consueto passeggio a via del Corso dopo la messa. È stato più animato del solito, nonostante il brutto tempo. Roma è sgombra dall'aristocrazia. Insomma, che ve dico, tutto tranquillo. E così, dopo aver pregato e scritto al marchese Sacchetti, il Papa scappa da Roma. Uscendo furtivamente per le scale interne del palazzo del Quirinale, per il portone incontro la chiesa di San Carlino. La facciata della chiesa, ideata dal genio di Borromini, sembra essere un drappo, una tenda. Le linee curve rendono la pietra morbida e sembra quasi che la facciata si muova, come fosse un sipario, mosso dalla mano di un attore nascostosi all'interno. E quell'attore è Pio IX, che scappa da Roma travestito da semplice prete, con in testa un cappellone a tese larghe che gli copre il viso. Il Papa elude la sorveglianza, sale su una carrozza e si dirige verso la chiesa dei Santi Pietro e Marcellino in via Laticana. L'ambasciatore di Baviera presso lo Stato Pontificio, il conte Carlo Birod von Spaur, lo aspetta. Il Papa monta sulla carrozza del conte e prende via Merulana verso il Laterano fino a Porta San Giovanni. Il conte Birod non ha problemi ad attraversare la porta grazie alla sua immunità diplomatica e al tiro là risponde con queste esatte parole: il ministro di Baviera che fa dal vano! E si esce da Roma, lungo la via Appia. Alle 5 di mattina il gruppo arriva ad Ariccia. Nella piazza dove sorge la collegiata di Santa Maria Assunta c'è una donna che li aspetta in un'altra carrozza. È la contessa Teresa Spaur, moglie del Birod, che ha in pratica organizzato tutta la fuga del Papa, in compagnia del cardinale Giacomo Antonelli. Anche lui, travestito da laico, è fuggito da Roma un giorno prima del Papa per mettersi in contatto con la contessa. E il Papa monta sulla carrozza della contessa e riparte, con tutto il cucuzzaio, con la contessa che grida al cocchiere di procedere verso sud, verso il regno delle due Sicilie. Dopo 4 ore il gruppo arriva a Gaeta, al confine tra lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico. Qui il cardinale Antonelli scrive una lettera al re Ferdinando II di Borbone chiedendo ospitalità. La consegna al conte Spaur che la porta a Napoli da re Ferdinando. Re Bomba, come una palla sparata dal cannone, si precipita a Gaeta e grazie al cardinale Antonelli persuade il Papa a non proseguire il viaggio e a restare. Tutto chiaro? Intanto a Roma inchiostra scrive, inchiostra scrive, inchiostra scrive. Ah, oh, senti che botti tra un po', io mi devo riposare. Me chiamano, senti che botti, venno l'inchiostro e faccio lo scrivano pubblico per i poveracci che non sanno né leggere né scrivere a Campo dei Fiori. Oh, come che il Papa è scappato e si è messo a giocare agli sconnarella. C'è stato un viavai di gente impressionante alle poste. Mi sono passate per le mani certi sigilli, certe buste con certi sigilli grossi così, perché mi hanno chiamato pure a me per vado più velocemente il lavoro. Oh, senti che botti tra un po'. Oh, Roma è piena di cavalli, di staffette, tutti a mandare messaggi, tutti che chiedono, oh, ma il Papa ando sta, che gli sarà successo a Pio IX? E mo che succederà in giro per l'Europa? Oh, tu sposta sto reggimento di qua che io mi devo guardare da là. Senti che botti. Oh, Roma senza Papa è una notizia che rischia di fare il botto, di far saltare il banco. L'occhi del mondo sono puntati tutti su Roma e quando che tutti ti guardano hai da stare attenta a come le muovi, perché sennò senti che botti. Oh, ma come sei saputo che il Papa sta a Gaeta? È cominciato un fuggi dei nobili e arti prelati, tutti verso il sud, tutti intorno al Papa, come l'apostoli intorno al Figlio di Dio. E infatti Pio IX ha ripreso coraggio e spedisce lui a noi arti romani un motu proprio. Proprio. Sarebbe una legge fatta da lui, incontestabile, insindacabile, nella quale afferma che tutti gli atti fatti dall'assassinio del ministro Rossi in poi sono nulli, poiché invalidi in quanto che fatti da violenza, e nomina a distanza da Gaeta un ministero tutto suo fatto così. Cardinale Castragane, Monsignor Roberti, Principe de Roviano, er Principe Barberini, Marchese Ricci de Macerata, Marchese Bevilacqua de Bologna e il Tenente Generale Zucchi. Ha capito? Pio IX, il Papa liberale, tutti i nobili e arti prelati nel governo suo. Ah, a noi ci sembrava tanto buono, invece, ma fuori voce che tutti questi che lui ha nominato. Gli hanno risposto a picchi. E te vedo, lo hanno risaccannonati. Mo però non si sa quello che succederà. Secondo me fra un po' senti che botti qui a Roma. Insomma, questo era un po' il clima di incertezza che si viveva nella città, a grandi linee, certo. E allora adesso mi viene una domanda. Un nobile delle Marche, Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferrero, in arte Pio IX. Come è diventato papa? Sarà stata una persona speciale, per forza. E allora adesso andiamo a vedere. Io sono curioso di sapere chi era questo individuo, perché se li fanno pari, insomma, devono avere per forza una peculiarità su qualcosa, per forza, perché non si spiega. Allora, dunque, eccolo qua, Pio IX, adesso vi dico subito, grandi linee, velocissimo. Ah, ecco qua. Dunque, qui dice che all'età di 5 anni, cadendo in un torrente, riportò un trauma cranico che gli causò improvvisi e ripetuti attacchi epilettici, per i quali poi successivamente dovette abbandonare gli studi e la sua carriera di guardia nobile pontificia. Poveretto. Poi però Vincenzo Pallotti, quello che fondò l'ordine dei Pallottini, che pare che ci avesse il dono della preveggenza, gli profetizzò il pontificato. Capito? Invece Papa Pio VII, incontrato il giovane Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti in un pellegrinaggio a Loreto, niente di meno, riguardo il suo male gli disse: crediamo che questo crudele male non vi tormenterà mai più. E così fu. Hai capito? Comunque, da quello che leggo, Pio IX oggi, alla gente di oggi, noi, ti sarebbe piaciuto come papa sicuramente, tanto tutti l'hanno fatto già beato nel 2000, perché intanto ci sarebbe piaciuto perché era un bell'uomo, un bel aspetto effettivamente, aveva una bella voce, ma soprattutto era colto, lui era nobile, aveva potuto studiare, quindi era un papa molto colto, e in più ci sarebbe piaciuto perché pare, dicono le cronache, che sia stato innamorato per ben 2 volte nella sua vita. Pensate oggi quanto ci avremmo, eh? E in più ci sarebbe piaciuto perché era uno sportivo, come puoi dire, lo dici. Era uno sportivo, no, questa è cronaca, è vero. Dice che era fortissimo, un vero campione nel gioco del pallone col bracciale. Che, se non mi guardate così, il pallone col bracciale era uno sport tosto. Era lo sport nazionale della penisola italiana e i campioni venivano pagati un sacco di soldi, come i calciatori di oggi. E lui pare che era fortissimo. Sostanzialmente era un misto tra la pallavolo e il tennis, e si doveva colpire una sfera di cuoio con un bracciale di legno applicato su tutto l'avambraccio, fatto di spuntoni così, e facevano questa cosa così. No? Ecco, adesso voi mi dovete dire se per immaginare un papa che gioca a sto gioco. Comunque, io a questo punto mi faccio sempre una domanda, perché magari a lui sarebbe piaciuto di più, ma chi lo sa come sarebbe cambiata la storia se Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti, invece di diventare Pio IX, fosse diventato, che ne so, Isidoro Braccio d'Oro, campione di palla al bracciale. Non c'è dato sapere. Ma quello che sappiamo sicuramente è che un giovane rampollo della famiglia dei Mastai Ferretti ha l'obbligo di far carriera. Ma lui, dicono le cronache, sempre le cronache, era un tipo umile. E infatti una volta ordinato sacerdote dichiarò di non volere cariche ecclesiastiche. E infatti lo fanno cardinale. Allora può succedere. E come cardinale partecipa al conclave del 1846, un conclave molto turbolento visto i tempi che correvano. E il 16 giugno 1846, nel secondo giorno di conclave, il giovane cardinale Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti viene eletto al soglio pontificio assumendo il nome di Pio IX, Habemus Papam! Anche l'Italia liberale dell'epoca applaudì alle elezioni di Pio IX. Sì, perché almeno all'inizio del pontificato sembrava avesse tendenze liberali e questo agli italiani di quel tempo piaceva molto, però poi le cose sono andate un po' diversamente e comunque lo sapete com'è il nostro popolo e il nostro paese, no? Si spacca e si divide su tutto, su qualsiasi cosa. Allora anche all'epoca fu così, c'era chi voleva la monarchia assoluta, chi voleva la confederazione di stati italiani, chi aspirava alla repubblica, chi voleva il Papa Costituzionale, chi odiava il governo dei preti e chi amava il Papa Re. Allora si discute nelle taverne, nelle botteghe, dice no, no, lascia stare che adesso Pio IX concesse l'amnistia per tutti i reati politici, perché tutti i papi appena eletti lo hanno fatto, tutti, nessuno escluso. No, no, proprio lei mi dice questa cosa. Scusi. Ma che Costituzione? Ha concesso la Costituzione? Ma dica piuttosto che è stato costretto a concedere una Costituzione dai modi del 48, eh? E poi scusami, ma di che Costituzione stiamo parlando? Una Costituzione che prevede due Camere legislative, una delle quali nominata a vita dal Pontefice, lei me la chiama una Costituzione democratica liberale? Andiamo. No, no, lasciamo stare questa storia della Confederazione di Stati Italiani, perché non è per niente, ma proprio per niente, un primo passo verso l'unità d'Italia. Come, perché? Perché stando così le cose, lo Stato Pontificio afferma e conferma la sua piena autonomia. Come in me. Ma se il Piemonte decide finalmente di dichiarare guerra all'Austria su nel Lombardo-Veneto, stando così le cose, lo Stato Pontificio può rimanere neutrale. Ah, è da vedere, dice, è da vedere. Allora lo sai che nuova c'è? Lo vediamo subito, perché Milano è insorta. I milanesi combattono contro gli 8.000 soldati austriaci del maresciallo Radetzky. Per 5 giorni la città viene messa a ferro e fuoco. Sono le 5 giornate di Milano. E scoppia finalmente la guerra tra Piemonte e Austria. Una guerra di indipendenza. A Roma, per come siamo fatti noi, subito si formano due corpi armati da mandare in appoggio ai rivoluzionari su a Milano. E il Papa che fa? Il Papa si ritrova questa cosa per le mani e dice, mo che facciamo? Cardinale, Eminenza, mi aiuti? Che facciamo con questi corpi armati? E Papa dice, non lo so, Santità, lei che vuole fare? Non lo so, che facciamo con questi corpi turbolenti? Mo, mica possiamo dire di andare a combattere contro gli austriaci, quelli è una potenza cattolica, come facciamo? E non lo so, però i romani mo adesso stanno qua sotto, che vogliamo fare? Il Papa si trova sti corpi armati, allora lui si affaccia al Quirinale, li arringa, li benedice, dicendo addirittura, Dio benedica l'Italia! E li fa partire verso il nord. Poi però, durante un concilio di cardinali straordinario, riunitosi per questa occasione, dichiara... In tale situazione, noi però, ai nostri militi mandati ai confini dello Stato, non volemmo che fosse ordinato altro che di difendere l'integrità e la sicurezza dei domini pontifici. Ma siccome ora alcuni desidererebbero che noi, unitamente agli altri popoli e principi d'Italia, entrassimo in guerra contro i germanici, abbiamo ritenuto nostro dovere dichiarare chiaramente e palesemente in questo solenne nostro convegno che ciò è del tutto contrario alle nostre intenzioni. Qui poi, al cospetto di tutte le genti, non possiamo non rigettare i subdoli consigli di coloro che vorrebbero il romano pontefice presidente di una certa nuova repubblica da farsi tutti insieme. In questa occasione, per la nostra carità verso i popoli d'Italia, li esortiamo caldamente di stare fedeli ai loro principi, dei quali hanno già sperimentata la benevolenza, e di non lasciarsi staccare dal debito ossequio verso di loro. Il Papa liberale, il Papa patriottico, da capo patriottico a traditore nel giro di poche settimane. Ed è per questa allocuzione che il rapporto tra lui e i romani si logora definitivamente. Ed è per questo che Pellegrino Rossi paga con la sua vita. Ed è per questo che i romani lo prendono a cannonate e quindi il Papa è costretto a scappare. E Roma in questo momento non è governata da nessuno. No, c'è il Consiglio dei Deputati che si trovano subito ad affrontare questa terribile situazione, perché era veramente drammatica. E allora dice, deputati, ma in assenza del Papa non manca il potere esecutivo, dice: «E vabbè, vorrà dire che da oggi in poi il potere esecutivo lo eserciteremo noi». «Sì, ma non sarebbe meglio tentare di riportare il Papa dalla nostra parte?» «Bravo, sì, in effetti sarebbe una grande idea, però prima bisogna che il Papa riconosca il nostro governo, eh?» «Dite, e allora che facciamo? Mettiamo su una delegazione, eh? Andiamoci a parlamentare!» «Ma che bravo, ma che bella idea! E chi ci va a parlamentare con Pio IX alla corte di Ferdinando II di Borbone, eh? Da re bomba, chi ci va? Chi ci va?» «E famo la conta, oh! Anghingo, tre galline e tre cappò, a Gaeta tocca andare, ci si va a parlamentare. Ma mannaggia di pescetti, noi ci andiamo a denti stretti. Che se il Papa è andato via, fai buon viaggio e così sia. Che Pio IX, zitto zitto, è scappato de soppiatto degli astretti per 23, ad annacce, tocca a te!» «Vado a me. E vabbè, vado. Spostate, è andato al Papa! Santità, Roma ha bisogno di voi!» «No, abbiamo già detto quello che dovevamo dire con il motu proprio.» «E basta. Vabbè, torno a Roma io.» «Chi lo dice a questo?» «Deputati, a me il Papa mi ha detto di no, eh.» «Allora digli che il 6 dicembre nella rada di Civitavecchia sono arrivati 4 vapori francesi con truppe da sbarco.» «Ma sempre io.» «Vabbè. Santità, il 6 dicembre, nella rada di Civitavecchia, sono arrivati 4 vapori francesi con truppe da sbarco!» «E lo so, Luigi Napoleone ha un debito con me, a Spoleto l'ho salvato dagli austriaci. E voi, che avete deciso di fare?» «Un attimo, Santità. Deputati, il Papa vuole sapere, eppure io, eh. Ma noi che avevamo deciso di fare i francesi?» «Digli che alle truppe della Francia sarà impedita con tutte le forze possibili l'entrata e la violazione del territorio nazionale per Roma e per l'Italia.» «Vabbè. Santità! Santità! Ah, le forze francesi saranno impedite.» «Sì, ho capito. Torno.» «Meno male.» «Ma prima sciogliete l'attuale governo e la guardia civica, che poi l'avevo pure fatta io, per roba mia. Poi chiudete tutti i circoli popolari e io torno.» «Sì, adesso vado a chiudere.» «Il Papa ha detto, dice che se non torna.» «E allora noi facciamo la suprema giunta di Stato che prenderà tutte le funzioni atte ad esercitare il potere esecutivo.» «Sono io il potere esecutivo, la giunta di Stato, non c'è mai nessuna autorità.» «E allora noi convochiamo le elezioni per l'assemblea costituente e te famo decadere.» «Non lo fate che ci sbattete il grugno.» «Voi ve ne siete andato, siete un principe elettivo e quindi non avete regno.» «E noi ci diamo il governo che ci fa.» «Ah sì? Allora io proclamo solennemente che chiunque partecipi alle elezioni incorrerà nella maggiore scomunica.» «Tutti? Le scomunico tutti.» «E allora noi preghiamo il municipio di far spurcare le chiaviche della città perché la scomunica possa fare il libero suo corso.» «Oh, questo ci sono detti.» A Roma c'era un fermento tale che è difficile da spiegare. Per i deputati era tutto nuovo. Certo avevano paura, eh? Sì, perché quando il Papa se n'è andato si sono improvvisamente trovati liberi, ma soli. Erano liberi di decidere, ma questo significava avere la responsabilità totale delle proprie azioni, nel bene e nel male. Libertas, essere libero. È una parola. La libertà è uno sforzo costante, estenuante, di sciogliere prima le catene interne e poi quelle fuori di sé. E guardate che ci sono più vincoli in ognuno di noi che in 100 dittature. E questo gli uomini di quell'assemblea, gli uomini del 48, lo avevano capito ed hanno cominciato a lavorare ad una Costituzione che facesse comprendere questo esempio di libertà. La libertà è la condizione di chi può godere della propria autodeterminazione. Ma noi non possiamo capirlo pienamente perché non conosciamo il suo contrario. Servitù, schiavitù, obbligo, divieto, proibizione, tirannia, dittatura. La libertà è come l'amore. Non si può capire se non vivendola, assaporandola, accudendola. Ed è per questo, per amore della libertà, che il 9 febbraio 1849, alla maggioranza di 120 voti, l'Assemblea Costituente dichiarò in nome di Dio e del popolo sovrano. Articolo 1. Il papato è decaduto di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano. Articolo 2. Il pontefice romano avrà tutte le guarentigie necessarie per l'indipendenza nell'esercizio della sua potestà spirituale. Articolo 3. La forma del governo dello Stato romano sarà la democrazia pura e prenderà il glorioso nome di Repubblica Romana. Articolo 4. La Repubblica Romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune. Bello, vero? E ci si rimbocca le maniche per far funzionare le cose. Ad esempio, si promulga un prestito forzoso sull'aristocrazia. Si instaura il matrimonio civile, la libertà di istruzione. Si abolisce la censura, si abolisce il tribunale dell'Inquisizione, si abolisce la pena di morte. In pochi giorni, viene smantellata completamente la commistione tra sfera civile e laica e quella religiosa dello Stato. E tutto questo grazie al decreto fondamentale della Costituzione della Repubblica Romana, pochi articoli, eh? Ed è in questo clima fervente di vero rinnovamento che un giovanissimo Goffredo Mameli telegrafa a Mazzini. Roma, Repubblica, venite. Vedete, questi non erano il governo di un partito. Questi erano il governo di una nazione. È preda di un incendio devastatore per opera di un partito sovvertitore di ogni sociale costituzione che sotto speciosi pretesti di nazionalità e di indipendenza nulla ha mancato di porre in opera per giungere al culmine delle proprie nequizie. Con un decreto detto fondamentale dichiara decaduto il papato di fatto e di diritto dal governo temporale dello Stato romano, proclama una repubblica, il Santo Padre, capo supremo della Chiesa, protesta e chiede alle potenze cattoliche che con ogni sollecitudine concorrano affinché egli sia restituito alla sua sede, in quei domini che furono costituiti per mantenere la sua piena libertà e indipendenza garantite dai trattati che formano la base del diritto pubblico europeo. E poiché l'Austria, la Francia, la Spagna e il Regno delle Due Sicilie si trovano per la loro posizione geografica in situazione di poter sollecitamente accorrere con le loro armi a ristabilire l'ordine manomesso da un'orda di settari, così il Santo Padre, nel religioso interesse di queste potenze figlie della Chiesa, domanda con piena fiducia il loro intervento armato. Le quattro potenze sopraccennate non indugeranno un momento di prestare l'opera a loro richiesta, rendendosi così benemerite dell'ordine pubblico e della religione. Il 18 febbraio da Gaeta, il cardinale Giacomo Antonelli, avente funzione di primo ministro dello Stato Pontificio, il cardinale Giacomo Antonelli, fa conoscere al mondo la protesta e i desideri del sommo pontefice Pio IX. E le quattro potenze rispondono presente. È la guerra. Roma sta per essere accerchiata dalle armate della Santa Alleanza. I primi ad arrivare sono i francesi, che sbarcano in 11.000 a Civitavecchia, guidati dal generale Oudinot. A Roma, per far fronte a questa drammatica situazione, si nomina un triunvirato con pieni poteri, composto da Mazzini, Armellini e Saffi. Si lanciano appelli di soccorso in tutto lo stivale. Bisogna respingere la forza con la forza. A tutti quanti siano fratelli di patria e di fede, Roma repubblicana apre braccia di madre. Patrioti da tutta Europa giungeranno a Roma. Viva l'Italia! Il 27 aprile approdo a Civitavecchia con i miei 600 bersaglieri lombardi. Siamo reduci dalla battaglia del Piemonte contro l'Austria. A guidarli sono io, maggiore Luciano Manara. A Civitavecchia veniamo intercettati dal generale Oudinot, che ci dice: siete lombardi, che c'entrate dunque negli affari di Roma? Gli rispondo: e voi, signor generale, siete di Parigi, di Lione o di Bordeaux? Che ci fate qui? Per tutta risposta il generale francese proibisce lo sbarco e aggiunge che se vogliamo sbarcare ad Anzio dobbiamo promettere di non combattere fino al 4 maggio incluso, segno che il francese vuole chiudere presto la partita. Sbarchiamo ad Anzio e marciamo verso Roma. Francesco D'Alerio, i fratelli D'Andolo, Angelo Masina, Emilio Morosini, Goffredo Mameli. Il popolo sta facendo le barricate nel più grande entusiasmo. Immensi applausi alle truppe che si recano alla posizione a loro assegnata. Le donne alle barricate, ovunque il tricolore, è uno spettacolo esaltante. Il popolo di Roma è con noi e insieme ci prepariamo allo scontro imminente. Roma conta una difesa di circa 9.000 uomini divisa in 4 brigate. Il grosso delle truppe viene concentrato a Porta San Pancrazio sotto il comando di Giuseppe Garibaldi e ordina alle divisioni di Masina e D'Averio di occupare alcune ville fuori di mura di importanza strategica, come Villa Corsini, detta anche il Casino dei Quattro Venti, che sorgendo in una posizione più rialzata rispetto alle mura e alla porta è adatta per bombardare la città. Questa villa va difesa fino alla morte. Alle 11 di mattina del 30 aprile il primo attacco, colpi di cannone e avanzata. L'avanguardia francese si dirige verso Porta Pertusa lungo le mura vaticane, ma la porta è murata. Ripiegano allora su Porta Cavalleggeri. I nostri sostengono l'attacco con il cannone e con fuoco vivissimo e continuato in moschetteria. I francesi sono in difficoltà. Garibaldi lo capisce e porta le sue truppe fuori Porta San Pancrazio e con i suoi moschetti sbaraglia i francesi. Intanto i nostri militi occupano il Vaticano. Dalle muraglie grandicano cannonate e moschettate al di sotto sul nemico che si dà in precipitosa fuga. Sono ormai le 6 di sera. I francesi sono in rotta verso Civitavecchia. Garibaldi li insegue da presso e Roma ha vinto la sua prima battaglia. Noi abbiamo affrontato le milizie più forti del mondo, combattendo fianco a fianco monarchici come me, repubblicani come Masina e D'Averio. Il popolo ci porta in trionfo. In questo momento gli italiani che sono a Roma sono grandi. Voi non potete capire quale entusiasmo, quale accordo regni tra il governo e il popolo di Roma. È una cosa meravigliosa. Ma vedendo le sue truppe respinte a Civitavecchia, Luigi Napoleone invia un diplomatico da Parigi, Ferdinand de Lesseps, con l'incarico di risolvere politicamente la questione romana. Ma è soltanto uno stratagemma per prendere tempo e rinforzare segretamente l'esercito di Udinò, che ora forte di 35.000 uomini, appoggiati da una imponente artiglieria, il 1 giugno riapre le ostilità, dichiarando però di non attaccare prima del 4 giugno incluso, ma all'alba del 3 giugno. Con una condotta di infame slealtà, una colonna francese viene inviata segretamente ad attaccare Villa Corsini, prendendo alla sprovvista i difensori. La villa è troppo importante, adesso in mano nemica. Saputa la notizia, le truppe di Garibaldi, Masina e Manara escono da Porta San Pancrazio all'alba di mattina e si lanciano alla carica. Una carica disperata per riconquistare la posizione, una carica in salita, allo scoperto e bersagliati da tutto il fuoco nemico presente sul campo. Beh, quel giorno il Gianicolo si trasforma in uno scenario di morte e di distruzione. Se seppe che il nemico era già padrone del casino dei 420, ma riportargli via la posizione se cominciarono i combattimenti. E dal primo momento che sorgeva la luce, che si uscì fuori dalle porte, fino all'ultimo che ci si vedeva, si fece tutto, ma non c'è fu terzo di spuntarla. Fu preso per 3 volte di fila e per 3 volte fu diverso. Eppure, come davano il segnale, mentre che dalle finestre e le ferrate veniva giù l'inferno, dal viale si rimontava sulle scalinate. Si entrava nel portone, per le sale, per le scale, tra le barricate, le sedie e tavolini, per le camere, a mozzi di aspintoni asciabolati con qualunque arma come se poteva, tra fiamme, fuoco, strilli e morti, si cacciavano via e se li vinceva, ma non c'è più verso che spuntarla. Fu preso per 3 volte di fila e per 3 volte fu diverso. E l'ultima, il tetto in cima già affumava, travi e soffitti si abbruciavano, per le camere ormai si camminava tra i cadaveri che si carbonizzavano, ogni bomba, ogni razzo che schioppava, nelle camere che si sfracellavano mentre che si periva e si ammazzava, travi e soffitti giù si sprofondavano e fu risai, e finché non fu distrutto, finché ci furono muri, porte e scale per poterci entrare. Se provò tutto, ma non c'è più verso da spuntarla. Ho preso per 3 volte le fila e per 3 volte ho rimesso. È finita. Villa Corsini è persa e Roma è diventata indifendibile. L'assedio durerà ancora diversi giorni, ma quel giorno tutti muoiono sul Gianicolo. Manara, Masina, Baverio, Mameli, uno dei fratelli d'Andolo e il più giovane del gruppo, Emilio Morosini, 19 anni. È difficile parlare di questa storia, perché è difficile comprendere come tutte queste distanze geografiche, politiche, sociali, sono state annullate in nome di questo straordinario sentimento d'amore verso la libertà. La libertà che fu ispiratrice della Costituzione della Repubblica Romana, che fu promulgata comunque a monito lo stesso giorno della sua resa. Beh, su quel colle, a Porta San Pancrazio, alla Villa del Vascello, a Casa Giacometti, a Villa Spada, a Villa Corsini, l'Italia ha versato il suo sangue migliore. Con Emanuele Cecconi, autore e interprete dello spettacolo RR 1849, Il sangue migliore, la Repubblica Romana del 1849. Emanuele, ben trovato. Buonasera a tutti. Ci racconti di questo lavoro? È un lavoro che parla del risorgimento, in particolar modo della Repubblica Romana del 1849, che sicuramente è stata la pagina più alta del risorgimento italiano. Probabilmente funziona un po' come uno spartiacque tra due periodi storici, perché il risorgimento si può tranquillamente dividere in due parti, cioè prima della Repubblica e dopo. La seconda parte ovviamente tutti sappiamo come è andata a finire con l'occupazione degli stati del sud dai Savoia e l'unità d'Italia sotto la monarchia di Vittorio Emanuele II. Questo spettacolo si ripromette di parlare degli avvenimenti che hanno visto la nascita della Repubblica Romana e anche della sua drammatica fine. È importante riscoprire, rinvertire quei valori che hanno spinto poi quei personaggi che noi abbiamo studiato a scuola, ecco Garibaldi, Mazzini, Manara, cercare di comprendere che queste persone, più che lottare per un'unità nazionale, stavano lottando per amore della libertà. Ecco. Quali sono state le due fonti? Dunque, io ho studiato come un matto per 4 anni per fare questo spettacolo, perché volevo essere minuzioso. Appunto, sono cose che, essendo uno spettacolo storico, le date, gli avvenimenti non potevano essere tirate così a caso. Ecco. Lo spettacolo è tratto dalle cronache di Roma di Nicola Roncalli, che praticamente era una sorta di stenografo dello Stato Pontificio. Questa persona, di cui si sa pochissimo, ha tenuto 51 diari che vanno dal 44 al 1870, che riguardano tutti gli avvenimenti più importanti dello Stato Pontificio e dei dintorni. Quindi quando è scattata l'ora X, in pratica, che Roma diventava repubblicana, lui era presente e diventò lo stenografo dei deputati che poi si trovarono a governare Roma in assenza del Papa, che era scappato a Gaeta. Da questi scritti cosa emerge? Beh, intanto emerge che, tristemente, bisogna dire che quel periodo storico là era molto particolare. Insomma, Roma era una città devastata, una città povera, poverissima, il popolo campava sostanzialmente di elemosina, elargita dalle grandi casate nobiliari. Emerge che era una società non molto diversa da quella che è adesso, perché comunque era violenta, anche un po' razzista, quindi non sono cambiate molto gli italiani da quel periodo storico a oggi, ma emerge che c'era uno spirito in quel momento, grazie ai moti del 48, uno spirito di rinnovamento che noi abbiamo perso poi negli anni, ci siamo assuefatti un po' allo status quo. Invece loro avevano capito che un essere umano, per poter essere libero in uno stato democratico, doveva lottare. E quindi si sono rimboccate le maniche e non ci sono stati mai. Quando il Piemonte dichiara guerra all'Austria, nel Lombardo-Veneto, e perdono, loro invece di arrendersi e scappare arrivano a Roma e ricominciano a lottare un'altra volta. Se consideri che un'intera generazione di patriotica, Mameli, Manara, Morosini, i fratelli D'Angelo, vengono uccisi tutti qui a Roma sul Gianicolo per difendere la Repubblica Romana, ti dà la dimensione di che cos'era quel sentimento che li ha spinti a fare quello che hanno fatto. Ecco. Come hai deciso di strutturarlo lo spettacolo? Un purpurri di personaggi, ecco. Ovviamente c'è un narratore che tiene il filo conduttore di tutta la storia, quindi mette in fila le date e cerca di far capire passetto per passetto come si è arrivati poi alla Repubblica Romana, quali sono stati gli elementi che hanno scatenato le rivolte. E poi ci sono i personaggi principali, che io faccio parlare in prima persona, e in più ci sono degli spaccati popolari che, dando voce al popolo di quel periodo, e tu sai che il popolo romano, anche quando è messo sotto botta, diciamo così, riesce sempre ad elargirci delle perle di comicità cinica, e quindi non è una lezione di storia, ecco, questo voglio dire. Comunque è uno spettacolo teatrale, dura un'ora, è anche divertente ascoltare questa storia. Ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, c'è la nostra pagina di compagnia, la Piano Zero Teatro. RR 1849, Il sangue migliore, la Repubblica Romana del 1849, liberamente ispirato alle cronache di Roma di Nicola Roncalli. Un saluto e un ringraziamento all'autore e interprete Emanuele Cecconi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie di cuore per l'opportunità, grazie. Con l'attore Fabrizio Gifuni per parlare di un doppio appuntamento a Roma, al Teatro Vascello, con Fatalità della Rima, la lettura del poeta Giorgio Caproni, lunedì 17 febbraio 2020, e poi con Il vostro irridente silenzio, dal 18 al 23, sempre di febbraio. Fabrizio, ben trovato. Eccoci, buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Ci racconti di questa doppia scadenza? Sì. Allora, sono due studi teatrali su cui ho lavorato negli ultimi 2 anni, molto diversi fra loro. Caproni è un omaggio a Giorgio Caproni, che è un poeta che io amo moltissimo e credo che molti lo amino in maniera altrettanto intensa, perché è uno dei più grandi poeti del Novecento, ma non così conosciuto ed esplorato e frequentato come meriterebbe. Caproni, peraltro, ci tenevo molto a farlo al Bascello, perché un po' come Pasolini e Gadda sono stati tutti abitanti di Monteverde Vecchio, che abitavano a poche centinaia di metri dal Vascello. La casa studio di Giorgio Caproni, ho avuto la possibilità di visitarla, perché i due figli di Caproni sono due persone meravigliose ed amabili, due signori gentilissimi che verranno tra l'altro lunedì. Mi sono innamorato di Caproni grazie a Giuseppe Bertolucci, che me l'ha fatto scoprire e che era un altro degli abitanti di Monteverde e grande amico di Caproni, il papà Tio, e Giuseppe, con cui, come sai, ho lavorato e collaborato tanto sì, in teatro e anche al cinema, aveva una grande passione per Caproni e me l'ha trasmessa. Questo è Caproni. La drammaturgia è, come al solito, una drammaturgia originale che fa un percorso sull'universo poetico di Caproni, con delle stazioni in cui Caproni racconta che cos'è secondo lui il mestiere di poeta. Sono tratta da un libricino molto prezioso in cui è stata trascritta una bellissima conferenza che lui fece al Teatro Flaiano a Roma tantissimi anni fa e che per fortuna è stata registrata e trascritta. Moro è tutta un'altra faccenda, naturalmente, sia per il contenuto che per la genesi, nel senso che è un lavoro che è nato perché Nicola La Gioia 2 anni fa mi chiese per l'apertura e l'inaugurazione del Salone del Libro di Torino, che avveniva il 9 maggio del 2018, a 40 anni esatti dalla morte di Moro, se avessi avuto piacere a fare un lavoro su Moro. Inizialmente mi aveva chiesto Nicola se volevo lavorare, come faccio di solito, un po' su anche testi letterari, perché molti autori anche della grande letteratura, da Sciascia, Garboli, hanno scritto su Moro e in particolare sul rapimento e sull'uccisione. Però invece io ho preferito lavorare unicamente sulle parole che Moro ha scritto ininterrottamente nei 55 giorni, cioè concentrarmi sui suoi testi più che sulle cose che sono state scritte su di lui, perché c'è anche una pletora di cose che sono state scritte, migliaia di pagine, documentari, film, e io credo che molto spesso aggiungere cose a cose, se non è proprio necessario, uno può anche risparmiarselo. Viceversa, le cosiddette carte di Moro, che sono un centinaio di lettere, il famoso memoriale, cioè le risposte che Moro diede ai brigatisti in questo processo rivoluzionario che gli fu intentato durante quei 55 giorni, e anche delle riflessioni che Moro autonomamente inizia a mettere in campo sulla storia d'Italia dal dopoguerra al 78, più alcune brevi disposizioni testamentari, ecco, tutto questo costituisce le cosiddette carte di Moro, che hanno una storia molto complessa che io racconterò in un piccolo prologo all'inizio dello spettacolo, e poi cercherò semplicemente di farle vivere, far vivere questo testo e questa presenza fantasmatica, che è un corpo un po' come quello di Pasolini, su cui la società italiana continua ad inciampare, perché quando ai morti non viene data una degna sepoltura continuano a essere come dei fantasmi inquieti. Il corpo di Moro, e in questo caso anche le carte di Moro, sono davvero una presenza fantasma con cui questa società ha fatto pochissimi conti. Rispetto ai due personaggi, cosa ami della poesia di Caproni e cosa invece è emerso dalla tua conoscenza del pensiero e delle parole di Moro? Caproni davvero è un piacere. Allora, intanto diciamo che Caproni amava che le sue poesie fossero lette ad alta voce, che è una cosa che non amano tutti i poeti. Non solo, ma Caproni scrisse anche perché alcuni suoi componimenti venissero letti ad alta voce da attori, dal Congedo del viaggiatore cerimonioso a Lamento e boria del Praticello deriso. Ci sono alcuni componimenti che lui chiamava prosopopee, che nascono proprio per essere detti, e io credo che la poesia di Caproni ascoltata qualità più potenti della poesia di Caproni che mi colpisce tantissimo, per rispondere alla tua domanda, che è la musica, cioè neanche la musicalità, ma proprio la musica, cioè sono versi che sono musica vera e propria. Tra l'altro sapeva di musica, aveva studiato musica, aveva suonato nelle orchestrine, faceva dei componimenti musicali quando studiava musica, e tutto questo poi io lo faccio raccontare a Caproni. Quindi, per rispondere alla tua domanda, ti ripeto, la musica che anima la profondità e la leggerezza di questi versi, che è l'altra grande qualità di Caproni, cioè è in grado di arrivare a delle profondità straordinarie, quelle che lui chiama le segrete gallerie dell'anima, ma allo stesso tempo lo fa con una leggerezza e con una ironia davvero speciale, insomma veramente un grandissimo poeta. Sulle carte di Moro, sai, io sono sempre stato molto appassionato di storia italiana, perché per un semplice motivo, perché sono convinto che la memoria storica di questo paese sia una delle poche cose che ci può consentire, se riusciamo a salvaguardarla, di non perderci completamente in questi tempi, che sono spesso anche bui e difficili da navigare. Se smarriamo anche il filo della memoria, cosa che è stata, diciamo, pervicacemente perseguita negli ultimi decenni, cioè si è fatto di tutto perché ci dimenticassimo la storia italiana dell'ultimo secolo, o anche semplicemente degli ultimi 50 anni, perché in questo modo, se le nuove generazioni perdono completamente il filo della storia, tutti sono autorizzati a poter dire e fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Questa pagina di storia legata alla fine degli anni 70, il rapimento Moro in particolare e queste carte in maniera ancora più particolare dovrebbero essere, secondo me, proprio patrimonio comune di tutti, nel senso dovrebbero essere studiate nelle scuole, e sono delle carte che in quei giorni sono state decisive, perché ci sono persone che per mettere le mani su quelle carte sono morte, dalla Chiesa, Varisco, a Pecorelli. C'è una partita importante, forse la partita più importante si è giocata per mettere le mani su quelle carte. Una volta che quelle carte sono state trovate, in un modo che poi racconterò appunto in quel prologo, in due riprese, eccetera, eccetera, sono state in qualche modo desecretate, fatte trovare, e adesso sono quasi interamente disponibili, quasi interamente perché possono mancare pochissimi fogli a quelle pagine, ora che sono state pubblicate e tutti le possono leggere, è come se fossero cadute in una zona d'ombra in cui a nessuno interessa più. Ed è una cosa abbastanza curiosa, quindi siccome io credo che il teatro possa servire anche a questo, a mettere dei testi in mezzo e a vedere che cosa succede, no? È la cosa che mi appassiona di più anche del mio lavoro, cioè vedere sera per sera la gente che viene in teatro e che condivide con me delle domande su dei testi a cui io non do nessuna risposta, perché penso che insomma il teatro meno risposte dà meglio è, ma più domande riesce a sollevare, e quindi in questo caso è davvero un esperimento, è un po' come evocare il fantasma di Moro in un teatro ed ascoltare quello che ha da dirci, quello che molti non hanno ascoltato all'epoca. Ecco, insomma, tutto questo devo dire mi appassiona molto. A Roma, al Teatro Vascello, Fatalità della rima, le poesie di Giorgio Caproni, e con il vostro irridente silenzio. Al Teatro Vascello, il primo lunedì 17 febbraio e il secondo dal 18 al 23. Saluto e ringraziamento all'attore Fabrizio Gifuni. Fabrizio. Oh, grazie a te, grazie a voi. Poi volevo ricordare un'altra cosa. Sì. Che sabato, cioè qualche giorno prima del debutto di Moro, sempre al Teatro Vascello, sabato 15 alle 19, ci sarà un incontro pubblico intitolato Moro 2020, in cui ci sarò io, ci sarà Cristian Raimo, ci sarà Miguel Gotor e Francesco Maria Biscione, che sono i due storici più importanti che hanno lavorato sulle carte di Moro, e Marco da Milano, il direttore dell'Espresso, e faremo un incontro, confronto con il pubblico proprio sull'eredità di queste parole oggi, cioè che significato hanno e che valenza possono avere oggi, proprio in vista, diciamo, dello spettacolo. Quindi questo è un altro appuntamento e chi vuole può unirsi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, ciao, grazie mille, ciao ciao ciao. con Paolo Alessandri, che cura la drammaturgia dello spettacolo Welcome to Pasolinia, liberamente ispirato al Bicchiere della Staffa di Harold Pinter, a Roma, Teatro Sofia, dal 13 al 16 febbraio 2020. Paolo, ben trovato. Ciao Federico, ben trovati a voi. Ci racconti questo lavoro? Sì, il testo è stato scritto per la regia di Adriano Evangelisti, con cui diciamo, è la prima volta che collaboro in questo modo, è frutto di un'analisi un pochino di quello che sta avvenendo in questi ultimi anni e purtroppo noi che siamo tutti molto pessimisti ci siamo fatti una domanda, no? Ma cosa farebbero gli esseri umani, cosa farebbe l'uomo, cosa farebbero i politici un domani se dovesse vincere davvero e finalmente direi l'istanza green, no? Che sta finalmente arrivando alle cronache, che sta finalmente contagiando anche sembra le industrie mondiali. Abbiamo immaginato un futuro in cui finalmente le istanze green vanno al potere, ma purtroppo, siccome dicevo siamo pessimisti nei confronti dell'uomo, diventano una nuova dittatura e quindi abbiamo ipotizzato questa realtà distopica in cui al potere c'è una nuova dittatura del tutto green, ma che comunque si comporta come tutte le dittature si sono sempre comportate, ovvero soffocando le libertà individuali. Com'è nato tutto? Io, diciamo, anche con spettacoli precedenti, con spettatori precedenti, mi sono sempre abbastanza drogato purtroppo di informazione e di attualità. Ti faccio un esempio, tanti anni fa è uscito un prototipo di automobile a idrogeno che sembrava essere la soluzione, no, per risolvere il problema del surriscaldamento globale, e questo prototipo è stato comunque mai considerato, non è mai stato considerato, ma a quanto pare oggi stiamo andando verso le automobili elettriche, ma nessuno si è mai posto il problema dell'inquinamento enorme per le batterie di queste automobili ad alte prestazioni elettriche, nessuno si è posto il problema del reperimento del cobalto, dello sfruttamento delle risorse dei paesi africani, quindi è un po' la mia convinzione, quello che volevo dire purtroppo è che se non prestiamo davvero attenzione a quello che ci succede intorno, non facciamo altro che comportarci come il famoso cane che si morde la coda. E in più ho ipotizzato, sai, ultimamente insomma è tornato anche l'argomento Pasolini, e c'è tutta una grande letteratura che sta valutando, rivalutando sempre di più l'opera di Pasolini. E in realtà il mio amore per Pasolini e la preoccupazione per come gestiremo il prossimo futuro si sono fusi in un testo che si chiama Welcome to Pasolinia, che ipotizza appunto un mondo in cui gli intellettuali hanno preso il potere, ma finiscono però per comportarsi come si comportavano i vecchi dittatori, purtroppo seguendo la corruzione della natura umana, no? Che purtroppo quando raggiunge il potere non riesce mai a gestirlo in modo democratico. Quindi è una fusione di queste due macro tematiche sulla consapevolezza, sulla consapevolezza di dove sta andando il pianeta e sulla gestione del potere una volta che l'uomo riesce a raggiungerlo. Qual è il rapporto con il testo di Pinter? È legato al rapporto vittima-carnefice. Pinter è stato davvero abile, in realtà è proprio liberamente ispirato all'opera di Pinter, perché tutto il testo è gestito da due attrici bravissime che sono Ramona Genna e Marta Iacopini, che sono in scena dall'inizio alla fine, e ho preso, ho rubato se vuoi l'idea di questo famoso dialogo a due del Bicchiere della Staffa di Pinter, dove c'è una vittima e un carnefice. Il carnefice interroga la vittima, un carnefice molto civile, molto borghese, molto mellifluo, ma in realtà non fa altro che fare violenza psicologica sulla vittima. Nella fattispecie i due personaggi, la vittima e il carnefice, in un modo che non vado a svelare adesso, ci sarà un'inversione di ruoli. Posso dire che tutti e due i personaggi, siccome lo spettacolo è ambientato nel 2030, tutti e due i personaggi hanno partecipato quindi ha piazzato nel futuro, quindi sono stati artefici della rivoluzione green, ovvero sono stati protagonisti di quello che, se vuoi, possiamo chiamare una nuova rivoluzione d'ottobre. Io ipotizzo una presa del potere violenta, cruenta da parte degli intellettuali di tutto il mondo per salvare il pianeta, e purtroppo poi, come dopo la rivoluzione d'ottobre, come dire, i moti rivoluzionari si trasformano in una nuova istituzionalizzazione, no? Diventano un nuovo regime fondamentalmente. Hai detto di un'ambientazione nel futuro, come avete pensato la messa in scena? È stato bravissimo Adriano Evangelisti, perché ha messo una macchina scenica del tutto asettica, perché noi ipotizziamo un futuro ecologicamente sostenibile ma anche assolutamente spersonalizzante, e la messa in scena è molto suggestiva e molto allo stesso tempo minimalista, perché siamo in un futuro ipertecnologico, ipersostenibile, quindi siamo sulla razionalismo funzionale, ti cito in faccia una citazione di Le Corbusier, quindi proprio sulla minimal, sull'essenza, e quindi su, poi per far venire fuori la forza delle due attrici, che sono veramente potenti in scena. Visto c'è l'evento Facebook, altri riferimenti web? Sì, noi siamo sull'evento Facebook, cito anche il sito del Teatro Sofia, perché non posso non citare il Teatro Sofia, che produce questo Anteprima Nazionale. È un progetto in cui hanno creduto fin dall'inizio, fin da quando, diciamo, il testo era ancora soltanto un titolo o una sinossi, e quindi vi, diciamo, invito tutti gli ascoltatori a seguire direttamente sul sito del Teatro Sofia, che è un bellissimo teatro, una bomboniera nel centro di Roma. Welcome to Pasolinia, liberamente ispirato al bicchiere della staffa di Harold Pinter, a Roma, al Teatro Sofia, dal 13 al 16 febbraio 2020. Un saluto e un ringraziamento al drammaturgo Paolo Alessandri. Grazie a te, Federico. Un abbraccio, in bocca al lupo, e a presto. Grazie, ti aspettiamo, se vuoi venire, sei nostro ospite. Ed eccoci all'agenda della settimana teatrale romana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Dunque, è una settimana questa piuttosto particolare, perché siamo freschi di assegnazioni per ciò che riguarda i teatri in comune, quindi dopo un tempo in più che la commissione si era presa per valutare i progetti, ha segnato definitivamente gli teatri, soprattutto se ricordiamo Quarticciotto e Bella Mora, che un po' fanno da cintura, perché nascono appunto come cintura, ma in ogni caso sono dei luoghi importanti di contatto con i territori un pochino più periferici. E ci sono state, insomma, anche chiaramente delle polemiche in merito per varie questioni che stanno affollando un po' il dibattito, e vedremo un po' che cosa accade. È un periodo molto particolare sul piano della politica culturale, perché contemporaneamente i vecchi gestori del Teatro Sant'Ambrogio, che è stato in qualche modo la nostra casa, la nostra linfa per il teatro indipendente romano per 10 anni almeno, vive, diciamo, un aggravarsi di posizioni contributive, amministrative, che si vanno a rivalere sui singoli, e questo è abbastanza sgradevole, insomma, per chi poi ha davvero fatto la storia del teatro in Roma. Per ciò che riguarda invece le più alte sfere, segnalo che, insomma, anche per quest'anno il Teatro Liseo di Barbareschi ha ottenuto un finanziamento extra FUS. Non si è ben capito in realtà neanche per quale motivo, ma insomma era proprio dall'Eliseo andiamo a partire, perché insomma è comunque un teatro che viaggia e fa il suo lavoro nonostante tutto. E vado a segnalare come ci siano due spettacoli in scena questa settimana. Nella Sala Grande resta in scena, dal 4 febbraio, Vetri Rotti di Arthur Miller con la regia di Armando Pugliese, in scena Elena Sofia Ricci e Maurizio Donatori e David Conco, insomma attori che in un modo o nell'altro hanno calcato palcoscenici molto importanti, o comunque anche serie TV, insomma hanno fatto cinema, anzi conosciamo questi attori per il loro lavoro. Arthur Miller lo conosciamo anche di più, perché insomma è un autore immenso che ha raccontato soprattutto la sua America, mastodontico insieme provinciale, e siamo a Brooklyn, in questo caso a novembre 1938. Silvia Kelwood, un'ebrea casalinga, viene colpita da una paralisi degli arti inferiori. Il medico è convinto di questa natura psicosomatica e emerge che Silvia è ossessionata dalla notizia delle persecuzioni contro gli ebrei che arrivano dalla Germania. Quindi l'eco di ciò che appare dal lontano in America, a New York, di ciò che stava avvenendo in Europa, è nel testo di Arthur Miller fino al 16 febbraio al Teatro Eliseo. Nell'altra sala, nella sala del piccolo Eliseo, Giusto la fine del mondo, il testo di Jean-Luc Lagasse e la regia di Francesco Frangipani. In scena ci darà addirittura Anna Bonaiuto, insomma, una attrice abbastanza nota e straordinaria. E la storia è quella di Luis, che è drammaticamente intrecciato con la vicenda personale dell'autore, perché è morto di AIDS a 38 anni. Lontano da casa per tanti anni, torna al suo paese natale per rivedere i suoi familiari e comunicare la notizia della sua malattia e della prossima morte. Questo quindi, insomma, è il dramma biografico, autobiografico in realtà, di Jean-Luc Lagasse, che Francesco Frangipane porta in scena dal 13 di febbraio fino al 1 di marzo. Per quanto riguarda invece le carrozzerie Nord, vado a ricordare che questa è una settimana un po' particolare, perché 13 e 14 febbraio, signori miei, torna Gioia Salvatori con il cuoro speciale Valentino, senza la santità di Valentino, anche se ben sappiamo che il 14 febbraio ricorra questa cerimoniosa festa degli innamorati, e proprio d'amore la Gioia Salvatori si occupa con il suo arco e la freccia col suo cuoro sbarcchione, che sarà un'alternativa sexy croccantona alla sempre sorella nostra pulsione di morte. Quindi è molto in realtà divertente la scheda e soprattutto lo spettacolo. 13-14 febbraio alle ore 21 al Teatro delle Carrozzerie Nord. Vogliamo ricordare anche questo lavoro che, in attesa dello spettacolo che sarà dedicato ad Aldo Moro dalla settimana successiva al Teatro Vascello, il lunedì 17 Fabrizio Cifoni legge Giorgio Caproni, e è un viaggio nella lingua italiana quello che Fabrizio Cifoni sta facendo da molti anni, dopo aver dedicato Gad, Pasolini, Pavese, Testori i propri lavori. Adesso si dedica alla poesia, la parola leggera e insieme profonda del grande poeta livornese. Questo appunto sarà lunedì 17 di febbraio al Teatro Vascello, Fabrizio Cifoni legge Giorgio Caproni. Per quanto riguarda il teatro di documenti, ti porto nella scrittura di Christa Wolf per questo adattamento, regia di Viviana Di Berte, di Medea Voci, un classico appunto di Christa Wolf, che capovolge il mito originario di Medea, che diventa un capo espiatorio di una società corrotta. Questo è quanto è in scena al Teatro dei Documenti dall'11 al 16 di febbraio. Allo Spazio Diamante, il 15 e 16 febbraio, Un branco di canisciotti, con la regia di Sergio Pacelli, ed è un lavoro che viene presentato appunto con una drammaturgia originale scritta dallo stesso Pacelli. Si tratta di uno spettacolo per più attori, sono i tre figli di Jeff Ganzini che vengono convocati dal padre nella casa di famiglia un'ultima volta, dopo gravemente malati, e li ha convocati per l'ultima volontà. Cosa accadrà per i tre ragazzi coinvolti in una vicenda che in qualche modo non conoscevano e che si trovano a dover affrontare? Questo lo andremo a scoprire al Teatro dello Spazio di Amante, 15-16 di febbraio, per Un branco di canisciotti. Stesso spazio, il Diamante, perché questa sera e domani da Furore di John Steinbeck, una drammaturgia di Tamara Bartolini, il Movimento Scenico di Michele Baroni e Alberto Bellandi, vanno in scena appunto a raccontare questo La terra perduta, un viaggio alla ricerca di questa terra che è, nella scrittura di Steinbeck, l'America segreta, ancora lontana dell'Ovest, della ricerca. In questo caso il lavoro si allarga a parlare di amore, di fuga, di migrazione, di razzismo, in ogni caso di umanità da ritrovare, del desiderio di costruzione. Bartolini e Baroni ci portano appunto attraverso la storia di Tom Jones, le parole di Steinbeck dedicate appunto a questa America da ricercare all'interno di un'America molto più grande, questa è un'America interiore che ci fa piacere poter mettere a fuoco. Pop of Theater 11-16 febbraio per Lucilla Lupagnoli che presenta Siamo tutti gay, una commedia che capovolge la realtà e porta in scena l'eterosessualità raccontata come un'anomalia. Quindi viene capovolto completamente il classico delle discriminazioni proprio per probabilmente discuterle e vedere un po' che cosa succede, a girare al contrario ciò che solitamente viene discriminato. Allora, al Teatro Basilica invece andiamo nel mito perché Luisa Stagni scrive e dirige questo Dimmi Tiresia e siamo in uno spettacolo di danza, quindi una riscrittura coreografica. Con le coreografie di Luca Piomponi, questo vecchio Tiresia ci narra dei miti di cui nasce il suo bizzarro tragico destino, quando fu donna e quando fu uomo, l'incontro con gli dèi e dell'eterna ingiusta punizione di avere la veggenza ma non avere più gli occhi per vedere. Quindi il destino è la punizione, lui cieco che non può evitare di vedere l'umano destino, è quello di Tiresia che sarà in scena dall'11 al 16 febbraio al Teatro Basilica di San Giovanni. Poi c'è lo studio 1, il ritorno dei tre Barba, Lorenzo Deliberato, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo, 13-16 febbraio per questo lavoro che è dedicato al barbiere di Siviglia da Gioacchino Rossini e Cesare Sterbini, un lavoro di riduzione molto ardito per l'opera di Rossini che comprende Così fan tutte, Rigoletto, insomma questi libretti dei celebri capolavori operistici del 700 e 800 che i tre Barba in maniera intelligente cercano di portare sui palchi più piccoli in realtà, quindi ecco, l'esperimento è anche spaziale, molto interessante. Per quanto riguarda invece il Teatro Trastevere, Annabella Calabrese presenta Shakespeare in Wine, Love Edition, questa è la scheda che ci viene portata a questo appuntamento mensile, scene tratte dal repertorio shakespeariano con degustazione di vino, quindi insomma un lavoro che mette insieme due passioni anche mie, di chissà quanti altri, insomma il vino e il teatro spesso si accostano, spesso si avvicinano. Per quanto riguarda invece, ti vado a segnalare, ecco le ultime cose che possiamo andare a identificare. Allora, per quanto riguarda il Teatro Palladium, c'è un grande ritorno a Roma questa settimana, mi piace segnalarlo perché io cercherò in ogni caso di non perderlo, ed è Giuliana Musso che torna a Roma dal 14 al 16 febbraio, è un lavoro un po' diverso dai precedenti, si chiama La Scimmia, sempre scritto e diretto da Giuliana Musso, vi racconto di una strategia di sopravvivenza che prevede la perdita di se stessi e del proprio sentire nel corpo, la descrizione di una iniziazione inevitabile alle solite vecchie regole del gioco del patriarcato, che impone la rinuncia all'intelligenza del corpo, al sapere dell'esperienza e dell'emozione. La scimmia è il corpo che vive, sente e quindi pensa, è l'animale pienamente umano. La scimmia, dice Giuliana Musso, siamo noi. Molto interessante l'idea che c'è dietro, 14-16 febbraio, Teatro Palladium per Giuliana Musso, che si va a misurare con appunto questo palco che ogni tanto ritorna all'interno dei nostri battiti, insomma, il Teatro Palladium che tanto abbiamo frequentato in passato. Per quanto riguarda invece il Teatro di Roma, ecco qua come a biglietto per la rassegna Grandi Pianure, segna di danza del Teatro di Roma, presenta con la regia di Silvia Rampelli Abstract al Teatro India, sarà in scena 15 e 16 febbraio. La pratica attuativa è il campo, scontorno l'attore, la figura, l'essere, lo situa, dice Silvia Rampelli, nella frontalità, lo consegno alla durata, alla luce, fa ingresso l'uomo, simultaneità, senza narrazione, azione, che non rappresenta. Quindi un'idea filosofica molto concreta, quella di Silvia Rampelli, che con Abstract va a portarci all'interno di una ideazione coreografica molto affascinante, come sempre accade nei suoi lavori, e questo è ciò che riguarda il Teatro India per 15 e 16 febbraio. Mentre invece da questa sera al Teatro Argentina fino al 23 di febbraio, Carlo Goldoni, l'autore, ma un autore diciamo abbastanza datato, la regia di Valerio Binasco, ed è invece un regista contemporaneo, per uno spettacolo che è uno dei maggiori spettacoli di tutti i tempi in Italia, ovvero sia l'Arlecchino, servitore di due padroni. Con Natalino Balasso e Michele Di Mauro, Fabrizio Conti, molti attori che sono insieme a Valerio Binasco, alcuni da molto tempo, l'Arlecchino contemporaneo che resiste al meccanismo di goldoniano della commedia dell'arte, è un bugiardo e disperato, diventa una scena da commedia italiana, uno stile quasi cinematografico, torna un po' di origine della tradizione comica. Quindi Valerio Binasco si misura con il comico e questo lo farà dall'11 al 23 febbraio al Teatro Argentina per Arlecchino, servitore di due padroni. E questo, Federico, è tutto. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.